Radio 24 e Fondazione Sigma Tau presentano Medios. In viaggio nel mondo senza fine della scienza con Federico Pedrocchi. Apriremo con i rapporti fra astrofisica e centrometristi e chiuderemo con l'omosessualità fra gli animali. Buonasera a tutti e tutte, e sarà così la puntata di Möbius di questa settimana. Ascoltiamo i titoli ora. Un gruppo di astrofisici si prende una pausa nell'osservazione dell'universo e misura quale avrebbe potuto essere il vero record di Usain Bolt nei 100 metri a Pechino. Due giovani squadre di robotica italiana partecipano al Lunar Challenge. Le pareti di un vulcano delle Canarie hanno simulato la superficie della Luna. Animali protagonisti al Festival della Scienza di Genova. Dall'alveare come superorganismo al pericolo di estinzione di molti primati, passando per l'omosessualità animale. Si dice che ai poli il ghiaccio se ne sta andando. È molto probabile. Quello che è certo è che la ricerca italiana si sta sciogliendo completamente. I nostri ricercatori si preparano a partire, ma visti i fondi, quali impegni potranno mantenere? Finalmente lo sappiamo. Come fanno le mosche ad essere così veloci nell'evitare la paletta che tenta di schiacciarle? Ma adesso sappiamo anche come prenderle. Un'azienda italiana produce il gas per apparecchiature da condizionamento meno inquinante. La sigla è 1234YF ed è la più avanzata tra le tecnologie attuali. Lo ricordiamo tutti probabilmente, Usain Bolt, il centometrista giamaicano che alle Olimpiadi di Pechino, ecco, sentite, ve lo ricordate? Lo sparo, i primi 60-70 metri e poi gli ultimi 20 metri della finale, nelle quali Bolt guarda verso gli spalti in assoluta scioltezza, chiama il pubblico ad applaudirlo e ha le braccia lungo i fianchi, posizione quanto mai lontana dalle consuete necessità ginniche proprio del rush finale di una simile gara. Conclusione, tutti hanno capito che Bolt può andare decisamente più veloce, il che ha immediatamente portato a interrogarsi sul perché il giamaicano non abbia dato il massimo. La risposta sta scritta in un contratto, quello che Bolt ha con i suoi sponsor, e che prevede una cifra significativa erogata ad ogni nuovo record stabilito. Lui ha nelle gambe una buona scorta di decimi di secondo da utilizzare e lo sa bene, certamente, perché sprecarli tutti? Insomma, io penso che avremmo fatto tutti e staremmo facendo la stessa cosa. Accade tuttavia che l'Istituto di Astrofisica Teorica dell'Università di Oslo e in particolare un gruppo di ricercatori guidati da Hans Eriksen, questo gruppo abbia forse creato qualche piccolo problema a Bolt. Con una serie di calcoli e simulazioni al computer, questo gruppo, utilizzando procedure solitamente impiegate per studiare oggetti dell'universo e anche analizzando sempre via computer il filmato della corsa, questo gruppo, vi dicevo, ha ricamato che Bolt avrebbe potuto fermare i cronometri a 9 secondi e 55, quindi ben al di sotto dei 9 secondi e 69 della finale, che comunque, vi ricordo, ha segnato il nuovo record mondiale. L'analisi del filmato ha anche dimostrato che nella fase finale l'atleta ha proprio rallentato evidentemente la sua corsa. Scientificamente dimostrato allora che Bolt ha contenuto la sua prestazione. Si faranno vivi gli sponsor per chiedergli di non tergiversare? Probabilmente no, perché i continui record del giamaicano, quelli che assisteremo senz'altro nei prossimi mesi, almeno nei prossimi 2 anni, daranno più immagine alla sponsorizzazione. In Giamaica hanno dedicato una canzone, un pezzo musicale. Jamaica woman fall and go. Oh yes, dangling once again. I will meet the other one. A Bolt e anche alle altre 3 grandi atlete che si sono classificate prima, seconda e terza nella finale dei 100 metri, e vi ricordo che Bolt si è vinto anche i 200 metri. Insomma, la Giamaica è il paese più veloce del mondo. Jamaica we love, though many times we may fall. Oh yeah, we keep the fight, though we survive through it all. Di solito il gioco che vi proponiamo parte nella seconda parte della nostra trasmissione. Questa settimana cambiamo e ce l'abbiamo subito. Il nostro quiz sta per arrivare. Allora, il violinista super criminale che vuole vendicarsi di Flash, l'uomo più veloce di tutte le cose più veloci, ha deciso di far saltare in aria l'ospedale della città, screditando il supereroe. Come può farlo? È lo stesso cattivone che fa arrivare a Flash la notizia che l'ospedale di lì a 50 secondi salterà in aria. Flash piomba a super velocità verso l'ospedale, ma non sa che il terribile violinista gli ha rapito la fidanzata, Iris West. Lei è legata a un albero nelle vicinanze dell'ospedale. C'è una pistola il cui funzionamento è regolato da una fotocellula. Quando Flash interromperà, senza poterlo immaginare, il raggio della fotocellula, sentirà il colpo partire e a quel punto dovrà fermare il proiettile. Ma alla stessa fotocellula è collegato il meccanismo che fa saltare l'ospedale della città. Cosa accade? Perché se l'amore prevarrà, Flash non potrà più restare nella sua città. Bene, prima possibilità. Flash può andare così veloce da tornare indietro nel tempo, come prevede la relatività, a quando il proiettile non è ancora partito e nemmeno c'è stata l'esplosione. Ci scriverete tempo. Seconda possibilità, Flash decide di muoversi così velocemente intorno all'ospedale da creare un vuoto totale. L'esplosione non può avere luogo e il proiettile non ha più aria su cui viaggiare. Ci scriverete vuoto. Terza possibilità, Flash non è fisicamente in grado di accorgersi che la fidanzata è in pericolo prima che l'ospedale salti in aria. Potreste scrivere non è in grado, ci scriverete grado. Dove? Con i soliti sms al 349-238-6666, 349-238-6666. Che cosa si vince? Il solito libro, il titolo di questa settimana è Il mondo senza di noi di Alan Weisman, edito da Einaudi, e di questi temi ne parleremo fra poco parlando del Festival di Genova. In collaborazione con IBS.it. L'ESA, l'ente spaziale europeo, ha promosso una gara rivolta a studenti e dottorandi che si occupano di robotica, Lunar Challenge, una sfida per imprese lunari. Insomma, in breve si doveva costruire un robot in grado di risalire il fianco di un cratere, scendere al centro del cratere e fare cose di cui vi dirò fra poco. 8 università europee sono arrivate in finale. Per l'Italia concorrevano il centro Enrico Piaggio dell'Università di Pisa e la scuola di specializzazione Sant'Anna, sempre di Pisa. Dov'era il cratere? Alle isole Canarie, quando la finale, nella notte fra sabato e domenica scorsi. I cellulari non funzionavano, verso le 22:30 chiamo via Skype Adriano Fagiolini, responsabile del gruppo del centro Enrico Piaggio. Pronto? Pronto. Ciao Federico, buonasera. Ciao Adriano. Perfetto. Senti, allora, voi siete a 3-4 ore dal vostro turno, sì. Ma in che punto siete adesso del vulcano? Beh, siamo proprio ai piedi del vulcano. Ma il robot, il vostro come quello degli altri, devono andare sulla fiancata del vulcano? Allora, in pratica, qui alla base del Monte Teide, ESA ha trovato un luogo in cui è possibile trovare un cratere che è simile a un cratere di impatto sulla Luna. Tutti i robot in pratica dovranno partire dalla stazione base, teleoperati, e dovranno raggiungere il bordo del cratere. Okay. Da lì in poi dovranno scendere all'interno del cratere e negoziare una pendenza di 40 gradi. Negoziare cosa vuol dire? Vuol dire che dovete riuscire a fargliela fare. Esatto, sì, dobbiamo riuscire a far sì che il robot riesca a scendere fino alla base del cratere senza rovesciarsi o rimanere incagliato in sassi che può trovare lungo il cammino. Lungo questa pendenza vi è della sabbia che rende il compito abbastanza complicato. C'è anche un altro equipaggio italiano? Sì, insieme a noi c'è l'altra squadra che è la Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Quindi sempre pisani? Altri pisani, sì, che ci hanno assegnato con i vicini. Ah, ok. Voi siete gli ultimi a partire, avete problemi tecnici adesso o tutto fila via liscio? Nelle prove? Ci sono alcune piccole cose che dobbiamo ancora risolvere, però il robot sembra comportarsi in un modo corretto. C'è anche l'altro gruppo, quello del Sant'Anna. Raggiungo Calogero Oddo, che ne fa parte. Non so come chiamarvi. No. Pisa 2. Sì. Pisa 2 e Pisa 1. No, siamo gruppi amici. Ecco. Anche se siete provvisoriamente in gara. Noi non siamo esperti di robotica mobile nel nostro laboratorio, però abbiamo approcciato al problema questa competizione in modo bio-ispirato in ogni caso, quindi non abbiamo tradito la nostra formazione culturale, l'impostazione che abbiamo in laboratorio. Bio-ispirato, nel senso noi proponiamo un robot esapode, quindi a 6 zampe, come se fosse un ragno gigante, quindi in questo sta l'aspetto del bio-ispirato. Scusi, tremo un po' perché qua fa molto freddo. Senti, volevo Sì, chiederti pronto. questo, state incontrando problemi adesso nella messa a punto oppure sta andando liscio? Ora stiamo finendo la messa a punto finale. L'unico problema che abbiamo, perché comunque abbiamo testato in vari giorni e tutto sembra andare, l'unico problema che abbiamo è il livello di umidità, sembra, che è il freddo. Cioè, il robot e l'elettronica comunque soffrono ovviamente il freddo, l'umidità, e quindi abbiamo bisogno di una fase di riscaldamento, chiamiamola così, che stiamo facendo proprio in questo momento. Ecco, mentre ci teniamo sullo sfondo una registrazione di qualche fase in cui il team del centro Piaggio era impegnato appunto nei momenti immediatamente precedenti e poi durante la gara, ecco. Mi serve un cacciavite piccola stella. Sentite, c'è sempre un momento in cui in ogni attività di ricerca c'è un cacciavite che non si trova, ma poi si trova infatti. Ecco, vi dico che la prova consisteva esattamente nel far salire al robot un tratto del fianco del cratere, raggiungere la sommità, scendere nel cratere e qui avvicinare un piccolo cumulo di sabbia, lì appositamente collocata dagli organizzatori dell'ESA, su un foglio di plastica, e poi prelevare un campione di questa sabbia, attività tipica, insomma, delle sonde inviate su altri pianeti. Solo che è successo ai nostri pisani che un pezzo di quella plastica si è attorcigliata al robot. Il parco naturale dell'isola impone, come in molti altri parchi, che né si portino materiali estranei alla natura del parco stesso, né si prelevino, e quindi ecco la sabbia sulla plastica. La mia personale opinione è che si poteva trovare qualcos'altro per metterci sopra la sabbia, visto che la plastica su altri pianeti, almeno finora, possiamo dire che non ci sia. Bene, lunedì mattina la gara è finita, quelli del Sant'Anna sono stati sfortunati, il robot ha avuto problemi nella fase di discesa dentro il vulcano, ma quelli della Piaggio invece sono andati molto bene, sono secondi dietro l'Università di Brema che ha vinto. Sul nostro sito, link, riferimenti, immagini e anche altre interviste con maggiore ampiezza su tutta questa gara. Nebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. La nostra redazione sta seguendo il Festival della Scienza a Genova, che fra l'altro sui numeri delle prime presenze di pubblico, beh, insomma, paiono abbastanza buoni anche quest'anno. Allora, Chiara Albicocco e Maurizio Melis vi parleranno ora di alveari, con tanto di api che ronzano, e questo c'entrerà con un libro, come sentirete, ma vi parleranno anche di primati, tutti primati tranne noi, come capirete appunto dal servizio. Sentiamoli. Chiara, ma cosa ci fa un'ape in studio? Maurizio, è venuta in radio per protestare, sai, stanno scomparendo, poverine. Meno male che è venuta da sola, però. Sì, dai, lasciala parlare. Ecco, allora, come avrete capito, parliamo di api e per parlare proprio della loro scomparsa, che è un fenomeno che ha suscitato un brevissimo scalpore qualche mese fa, ma poi è caduto subito nel dimenticatoio. Ecco, nonostante la situazione in realtà continui a peggiorare. Infatti, Chiara, per capire di cosa stiamo parlando, diamo due dati. Intanto la moria è iniziata improvvisamente. Pensa che nel 2007 in America oltre il 90% delle api sono scomparse, miliardi, miliardi di api. Ma il fenomeno è già arrivato anche in Europa. In Italia nel 2008 si sono persi 55 miliardi di api. Ecco Maurizio, bisogna chiarire subito che la scomparsa delle api non è un problema solo degli apicoltori. Ecco, magari a qualcuno potrebbe non interessare, ma invece è proprio un problema di tutti. Per intenderci, l'80% delle derrate alimentari del nostro pianeta dipendono dall'impollinazione degli apoidi. Gli apoidi sono api, bombi, insomma tutti gli insetti che appartengono alla famiglia delle api. Infatti la sopravvivenza di molte specie vegetali, per esempio, è legata all'impollinazione da parte di una sola specie di ape. Quindi scomparsa l'ape, scompare anche la specie vegetale. Sì, Chiara, pensa che in Italia il danno annuale è già quantificabile in termini economici in circa 300 milioni di euro, 250 dei quali dovuti a perdite in ambito agricolo per mancata impollinazione. Solo i restanti 40 o 50 milioni, quindi solo un sesto, sono perdite del comparto, dell'apicoltura. Pensa che secondo gli esperti ogni alveare produce 1.200 euro all'anno di ricchezza in servizi offerti all'agricoltura. Insomma, miele escluso. Ecco, forse qualcosa dobbiamo dire anche circa le cause di questa repentina scomparsa. In realtà non ce n'è solo una, ma è una somma di concause, e queste possono essere ovviamente il cambiamento climatico, ma anche la tendenza alla monocoltura, all'uso indiscriminato di diserbanti e anche all'arrivo di nuovi parassiti. A questa complessità di cause poi si somma la complessità del sistema alveare, tanto che si parla di superorganismo. È di questo che vogliamo parlare. Infatti a Genova hanno presentato un libro, Il ronzio delle api, traduzione italiana del testo di Jürgen Tautz, edizioni Springer. Un bel libro, molto ricco di dati, di immagini sul mondo delle api. E durante la conferenza si è parlato proprio dell'alveare come superorganismo. Abbiamo intervistato il relatore. Chiara, lo presenti tu. Siamo in compagnia di Claudio Porrini, che lavora presso l'Università degli Studi di Bologna nella Facoltà di Agraria. Allora, durante la conferenza si è delineato il concetto di alveare come superorganismo e insomma le chiediamo di spiegarcelo. Praticamente l'organismo alveare viene visto come un superorganismo, cioè non come una somma di esseri viventi che si sono messi insieme, che sono appunto le api, ma che associandosi creano un'entità superiore, un'entità superiore che reagisce agli stimoli ambientali in maniera puntuale e molto precisa, ad esempio la termoregolazione, che è un meccanismo molto sofisticato, fa sì che la temperatura venga mantenuta costante per tutto il periodo dell'anno, questa temperatura è intorno ai 35-36 gradi centigradi. Questo sistema di termoregolazione funziona d'estate quando c'è caldo, con le api ventilatrici che creano una corrente d'aria battendo le ali. Se la calura è molto, molto alta, intervengono poi le api acquaiole, portano dentro l'acqua, viene spruzzata e col principio dell'assorbimento del calore da parte dell'acqua la temperatura diminuisce. D'inverno invece che bisogna fare... Riscaldare l'alveare, le api si radunano in glomeri intorno alla perigina, certamente non tutto l'alveare, ma solamente una parte di questo alveare viene mantenuta a questa temperatura, e irrigidiscono certi muscoli, i muscoli alari, e con questo irrigidimento producono colore, come quando noi abbiamo freddo, abbiamo i brividi, no? E cerchiamo di... Aumenta il metabolismo. Sì. Quindi diciamo che... si può in un certo senso fare un parallelismo abbastanza evidente fra quelle che sono per esempio le funzioni cellulari all'interno dell'organismo e dei compiti che delle api specializzate svolgono all'interno dell'alveare. Abbiamo detto di questo primo esempio, facciamone qualcun altro. Sì, ad esempio la funzione alimentare, gli organismi superiori quando si ha fame si va a tavola, si va a mangiare, nel superorganismo alveare ci sono le api bottinatrici che vanno a prendere nettare e polline, che sono le sostanze principali che lo portano all'interno dell'alveare per appunto le esigenze sia della prole che della popolazione adulta. Possiamo dire che l'alveare, anziché essere un insieme di animali, quasi è un animale unico. Sicuramente deve essere visto con questa certo. ottica. E un elemento fondamentale per l'armonia di questo superorganismo è sicuramente la comunicazione tra gli elementi che lo compongono. È forse quella più importante, se non altro perché poi quando è stata scoperta von Frisch prese il premio Nobel, insomma, nel 73. La danza è un insieme di segni e non di segnali, come invece avviene negli altri animali. Quindi c'è questa danza che comunica la distanza, comunica la direzione, l'angolo rispetto al punto a terra del sole, di dov'è appunto questa fonte alimentare, la concentrazione zuccherina, l'odore di questa pianta, cioè comunica una serie di cose molto complesse, e le api che stanno intorno le recepiscono e vanno poi a bottinare nell'ambiente esterno, l'alveare. Ecco, una delle cose che in un certo senso differenzia questo superorganismo da altri organismi più classici è invece la mancanza di una gerarchia precisa, nel senso noi potremmo dire che nell'uomo per esempio comanda il cervello, nell'alveare invece funziona diversamente. Sì, il funzionamento di questo superorganismo alveare è abbastanza complesso, insomma, però ecco, questi comandi partono dal basso, vanno verso l'alto. Abbiamo fatto l'esempio della termoregolazione, allora ci sono delle api che sono più sensibili all'abbassamento di temperature, quindi si attivano prima, e poi ce ne sono a gradi altre. Questo sistema a gradi fa sì che ci siano dei piccoli passi che determinano poi un macro comportamento, e tutte le funzioni all'interno dell'alveare funzionano in questa maniera. Sono tutti piccoli passi che le api, soprattutto le api operaie, fanno per determinare un macro comportamento. Veniamo invece al suo terreno di studio attuale. Lei studia le api come bioindicatori. Intanto, se ci fa capire che cosa significa e poi che tipo di indicazioni ci danno. Ma le api appunto sono gli ottimi bioindicatori perché hanno un rapporto con l'ambiente circostante molto intimo, frequentano questo territorio in modo molto attivo. Teoricamente si dice che un alveare ha un raggio di volo di 1,5 km, sottintende a circa 7 km² il territorio, e in questo territorio un alveare singolo fa circa 10 milioni di microprelievi al giorno, che è veramente un numero stratosferico, insomma uno strumento, come diciamo sempre, molto potente a nostra disposizione. I tipi di applicazione sono diversi, noi le abbiamo utilizzate nei campi coltivati per vedere l'uso o l'abuso degli agrofarmaci, nelle città, nelle zone industriali per vedere l'inquinamento da metalli pesanti o da idrocarburi policiclici aromatici, l'abbiamo utilizzati per quanto riguarda durante Chernobyl, durante la fuga radioattiva, ma anche per quelle piccole fughe radioattive che possono avvenire nella vita civile, cioè un incidente di percorso, ne sono successi diversi, le api le hanno prontamente rilevate. In che senso le hanno rilevate? Cioè, voi prendete l'ape e fate un'analisi chimica dell'ape? O... Sì, ci sono varie tecniche. Per quanto riguarda gli agrofarmaci, le api muoiono, quindi noi dobbiamo controllare la mortalità. Per quanto riguarda i metalli pesanti, i radionuclidi, facciamo dei prelievi di api a tempi stabiliti e facciamo delle misure radiochimiche oppure delle analisi chimiche della presenza dei metalli pesanti. Ci diceva che le api sono utilizzate anche come bioindicatori per gli esplosivi, cioè per identificare il posizionamento delle mine antiuomo. Io sono curiosa di sapere come. Dunque, queste sono ricerche sotto segreto militare industriale. Noi non abbiamo ancora cominciato, ci piacerebbe molto iniziare, c'è anche un interesse della Polizia di Stato per questo tipo di ricerche. Cosa succede? Succede che questo tipo di monitoraggio è un monitoraggio attivo, noi condizioniamo le api ad andare a cercare quel tipo di sostanza e le condizioniamo con i sistemi di condizionamento normale per gli animali, insomma noi diciamo vai, cercami quella sostanza dandogli il premio e l'ape è condizionata a sentire quell'odore particolare. La cosa sembra semplice, ci sono dei know-how da mettere a punto. Immagino. E noi speriamo di iniziare questo tipo di ricerca che è già stata fatta, intrapresa in altri paesi come gli Stati Uniti, Inghilterra, eccetera. Ma cosa siamo, allo zoo? Dì allo scimpanzé di lasciare stare il microfono. Sì, Maurizio, infatti insieme alle api ci tengono anche a protestare, a far sentire il loro verso, diciamo così, sono anche gli scimpanzé. Infatti non sono solo i gorilla in pericolo, ma se la passano male anche gran parte degli altri primati, le scimmie, i lemuri e così via. Protestano sì, perché sta sparendo il loro ambiente, il loro habitat, la foresta tropicale. Infatti, salvo rare isole felici, a volte nei paesi più insospettabili, come ad esempio l'Uganda, la foresta ovunque nel mondo è sottoposta a forte disboscamento. In Africa, in Asia, in Sud America, insomma un po' dappertutto. La situazione è ancora più delicata negli arcipelaghi tropicali, come le Mauritius o le Comore, dove può capitare che una piccola isola ospiti una specie unica, una specie detta endemica. E c'è un libro in uscita che si intitola Il mondo in bilico, edito da La Mursia, e tu, Maurizio, ne hai intervistato l'autore. Sentiamo. Angelo Tartabini, Università di Parma, psicologo e psicologo evoluzionista che ha speso una vita, si può dire, un po' in giro per il mondo, quelle parti del mondo che noi comuni mortali visitiamo da turisti e che invece lei ha visitato da studioso e soprattutto da esperto di primati o di scimmie. Per quale ragione ritiene che sia particolarmente importante prestare attenzione a questi animali? Perché appartengono ad un genere che è prossimo al nostro. Abbiamo molte caratteristiche in comune, ma non sono le caratteristiche, per così dire, estetiche, fisiche, che a me interessano, sono soprattutto quelle psicologiche. E quindi lo studio delle funzioni psicologiche in questi animali è estremamente interessante ai fini della conoscenza e dello studio delle funzioni psicologiche nella nostra specie, come ad esempio la comunicazione, in questo caso una linguistica che ci permette proprio di entrare nell'animo dello scimpanzé, in ciò che pensa, ciò che sente, ciò che prova, se ciò che ha fatto è morale o immorale e così via di seguito. Se lei dovesse dirmi tre scimmie che sono particolarmente in pericolo, quali sono e dove vivono? Le più importanti, l'orango, il gorilla e lo scimpanzé. Queste sono tre specie in via di estinzione, ma sono anche quelle che per caratteristiche fisiche, genetiche, morfologiche, intellettive e psicologiche sono purtroppo quelle più prossime all'uomo. Quindi se verranno a mancare loro, verrà a mancare un elemento fondamentale di congiunzione tra l'uomo e il resto del regno animale. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Come dicevamo nei titoli, ci sono notevoli probabilità che i ghiacci e i poli diventino acqua, ma non si parla di probabilità per quanto riguarda la ricerca scientifica italiana, in questo caso solo in Antartide. Si sta sciogliendo tutta per mancanza di fondi. Ascoltate Barbara Gallavotti. Qualche mese fa con Massimo Frezzotti dell'ENEA abbiamo fatto il punto sullo stato delle ricerche italiane in Antartide, un campo in cui l'Italia negli anni si è conquistato un posto di primo piano a livello mondiale. Però dal 2006... proprio sulle ricerche in Antartide pesa un taglio ai finanziamenti che ha effetti assolutamente drammatici. Prima dell'estate non si sapeva neppure se il nostro paese sarebbe riuscito a mantenere dei ricercatori in Antartide per la stagione del 2008-2009, che è quella che si apre fra pochi giorni. Poi, alcune settimane fa, si è diffusa la voce che finalmente i fondi erano stati trovati. Chiediamo se è proprio così a Massimo Frezzotti, che è di nuovo qui con noi. Buonasera, bentornato. Buonasera a tutti quanti, grazie. Allora, tutto a posto? Siete pronti a partire? Ormai sarà fra un paio di settimane? Diciamo siamo pronti a partire. Per il terzo anno abbiamo avuto un finanziamento assolutamente al limite di sopravvivenza, cioè anche quest'anno abbiamo avuto un taglio drastico dei finanziamenti e dovremmo avere circa 8 milioni di euro, ancora non è chiaro quant'è il finanziamento assegnato. Precedentemente noi avevamo dei fondi intorno ai 25-30 milioni di euro, che sono la cifra che avevamo avuto nei anni precedenti e quella che viene di solito stanziata dai paesi occidentali, quelli del G8, insomma comunque quelli che hanno la più importante partecipazione in Antartide. I colleghi che andranno in Antartide quest'anno partiranno nelle prossime settimane e andranno a fare soltanto delle manutenzioni della stazione in maniera tale da mantenere il patrimonio scientifico di strumentazione e delle basi. Servirebbero 25 milioni di euro, ne sono stati stanziati forse 8, perché 25 milioni di euro o anche solo 8 per una missione in Antartide? Perché le missioni in Antartide sono come missioni nello spazio, noi dobbiamo attrezzare un razzo, cioè le navi, gli aerei, la logistica che ci permette di arrivare là, di raccogliere campioni, di lavorare in condizioni ambientali assolutamente estreme. Dobbiamo tenere presente che quest'anno, per esempio, degli 8 milioni di euro, 2 vanno soltanto per i mezzi aerei che trasporteranno il minimo indispensabile del personale logistico e scientifico per mantenere la strumentazione, e 3 se ne vanno in carburanti, pezzi di ricambio, viveri e così via. Quindi 25 milioni di euro, che è una cifra che a chiunque di noi sembra essere chiaramente enorme, però in realtà su scala nazionale si tratta di una quantità di soldi abbastanza irrisoria. Adesso, senza fare paragoni con le liquidazioni dei grandi manager di cui abbiamo parlato in questi giorni, 25 milioni di euro, per dare l'idea, sono il costo per la ristrutturazione di un palazzo oppure per l'acquisto di un aeroplano Boeing, o ancora, secondo una notizia diffusa dalla Guardia di Finanza, l'ammontare delle tasse evase in Abruzzo da alcune società che operavano nel settore immobiliare oppure della vendita di prodotti di pulizia. Quindi per un governo, anche in un momento di difficoltà economica, si tratta di spiccioli. Perché sarebbero bene investiti? Sarebbero bene investiti perché la ricerca è il motore di un paese. Un paese senza ricerca è un paese senza futuro. Tutti i paesi del G8 e anche quelli emergenti come la Cina spendono delle cifre molto importanti per la ricerca, e la ricerca sia, diciamo, quella applicativa direttamente, ma anche la ricerca di base o la ricerca sui cambiamenti climatici. La ricerca sui cambiamenti climatici è quella in particolare che ha a che fare con i vostri studi in Antartide? L'Antartide è il motore climatico del nostro pianeta. Quello che noi facciamo in Antartide serve per capire quali sono i complessi meccanismi del mutamento climatico, e le conoscenze che abbiamo raccolto in Antartide servono per per fare le scelte politiche energetico-ambientali dei prossimi decenni. Faccio un esempio banale: la fusione delle calotte di ghiaccio nel prossimo futuro sarà la causa maggiore dell'innalzamento del mare. Questo ovviamente ha degli importanti impatti. Se noi pensiamo che più di 300 milioni di persone, importanti insediamenti umani e industriali, si trovano dentro un metro al livello del mare, che le previsioni di fusione delle calotte possono comportare un innalzamento nei prossimi secoli di 1-2 metri di livello del mare, possiamo capire qual è l'impatto della ricerca che viene fatto in Antartide, che è un posto così lontano, sulle coste dell'Italia, per esempio. Non è un caso che condividiamo con i francesi la base Concordia, che è l'unica base, assieme a quella americana, a essere davvero operativa anche nei mesi più freddi. Naturalmente ciò ha comportato degli impegni internazionali. Che ne è adesso dei nostri impegni? L'Italia negli ultimi 25 anni ha impegnato circa 500 milioni di euro in Antartide, ha costruito si è costruito prima di tutto una fama a livello internazionale, sia di efficienza scientifica che logistica. Questo ovviamente è un fiore all'occhiello, insomma, per l'Italia. Gli impegni internazionali non ne abbiamo, nel senso abbiamo soltanto l'impegno internazionale di Concordia, che è stato firmato nel 2005 e prevede la cogestione di questa struttura d'eccellenza fino al 2016. Altri impegni internazionali ormai non esistono più, perché non manca una pianificazione dal 2005 dei finanziamenti. Se non si ha una pianificazione a 5-10 anni, non si possono prendere impegni internazionali per grandi progetti come le perforazioni in ghiaccio o in mare o degli esperimenti di astrofisica. Paola Rebusco, ti saluto, ciao. Ciao, buonasera. E tu da Boston ci hai sempre fatto corrispondenze su dei temi molto sofisticati, come le galassie, come i radiotelescopi, come le sonde che servono a guardare l'universo. Io questa sera invece dovrei sentirti su questo tema, e cioè perché è così difficile schiacciare una mosca, no? Esattamente. Io so che invece questo tipo di ricerche sono molto interessanti dal punto di vista fisico, perché possono arrivare proprio da queste cose delle indicazioni sorprendenti e applicabili in tanti altri campi. Ti faccio allora una domanda iniziale meno generale. Effettivamente la sensazione che noi abbiamo è che le mosche siano tremendamente imprendibili. Come fanno a scappare così velocemente? Allora, il segreto è stato svelato: semplicemente calcolano la posizione dell'oggetto che le minaccia, lo schiacciamosche. Preparano le zampine e il corpo, e quando lo schiacciamosche si avventa, saltano nella direzione opposta. Cosa un po' prevedibile, ma la cosa sorprendente è che la mosca ci mette 100 millisecondi, un battito di ciglia, a fare tutto questo calcolo. Ha un cervello da Speedy Gonzales. Quindi la grande velocità di reazione che ha con uno schiacciamosche, quindi figuriamoci con qualcosa che è meno adatto a schiacciarle. Esatto. C'è un gruppo di ricerca che ci ha lavorato sopra. Sì, in realtà c'è il professor Michael Dickinson del California Institute of Technology, che ha un intero laboratorio dedicato al volo delle mosche. E quindi Dickinson e una sua studentessa, Gwyneth Card, hanno usato delle macchine fotografiche digitali ad alta definizione e ad altissima velocità, scattano 5600 fotogrammi al secondo. Mm-hmm. Praticamente hanno piazzato dei moscerini della frutta al centro di una piattaforma. E poi l'hanno provata a schiacciare da direzioni diverse. Ok, moscerino della frutta può essere considerato equivalente a una mosca. Okay. Sì. E hanno provato a schiacciarla da tutte le parti. Da tutte le parti, e hanno visto le varie parti del corpo come reagivano, ecco, che tempi. Quello che loro hanno ricavato, tra l'altro ricordo qui che andando al nostro sito si vedrà un servizio a partire dall'home page, c'è anche il link a dei filmati, a questi filmati che loro hanno fatto. Loro cosa hanno visto allora in questi filmati? Allora, hanno scoperto che quando lo schiacciamosche incombe davanti alla mosca, allora la mosca sposta le zampe di mezzo in avanti, il corpo indietro, e in questo modo si prepara a saltare indietro. Sì, se lo schiacciamosche invece è indietro, ricordiamoci che la mosca ha praticamente una visione a 360 gradi, certo, quindi riesce a coglierlo, sì, riesce a vederlo, e in 100 millisecondi riesce a spostare le zampine di mezzo indietro, il corpo in avanti, e salta in avanti. Quindi è tutto un equilibrio tra posizione del corpo e posizione delle gambe, in modo da potersi muovere in entrambe le direzioni, avanti e indietro, con la massima efficienza. Esatto. esatto, il trucco è il fatto che riesce a integrare in tempi record tutta questa informazione sulla posizione del proprio corpo e sulla posizione dello schiacciamosche. Perfetto. Ecco, ma sì. Senti Paola, a che cosa possono servire queste ricerche? Si pensa che questi studi possano trovare applicazioni per costruire dei mini robot, e questi mini robot possono partecipare ad operazioni di salvataggio o andare su altri pianeti, quindi alla fine ritorniamo sempre all'astronomia. E poi possiamo sapere come schiacciare una mosca, un problema molto importante. Avendo fatto le ricerche su come le mosche sanno scappare, contemporaneamente siamo venuti anche a conoscenza di come prenderle. Ebbene sì, allora dipende dalla direzione da cui ci stiamo avvicinando. Per cui se per esempio la mosca sta guardando verso di noi, sì, quindi noi ci avviciniamo dal davanti della mosca, dalla testa, sì, dalla testa, allora la mosca si prepara per saltare indietro. Certo. Se noi vogliamo schiacciarla, invece di puntare lo schiacciamosche centrato sulla mosca, ok, comincio a capire, dobbiamo puntare leggermente indietro, sapendo che la mosca salterà in quella direzione. Cioè, puntiamo in una zona dove la mosca, scappando, si troverà nel momento in cui ai lei lo schiacciamosche arriverà. E così è andata. Mosca schiacciata. Questo è tutto. Sì. Grazie Paola, ciao. Ciao, alla prossima. Siamo alla soluzione del quiz. Cosa può fare Flash? Ha sentito lo sparo, ma se si precipita a fermare il proiettile, l'ospedale salta in aria. Bene, non può fare niente, perché questo benedetto ragazzo viaggia sempre almeno a 10 km al secondo, almeno, e quindi, poiché il suono, quello dello sparo, viaggia a 300 metri al secondo, questo suono non potrà mai raggiungerlo. Lui non lo sentirà, salverà l'ospedale e poi gli diranno che ha perso la fidanzata. Ecco, questa era la soluzione del nostro quiz. Adesso vi dico che la crisi economica fa bene alla salute, i programmi cinesi fanno bene ai ricercatori, la Tasmania invece purtroppo non fa bene ai suoi diavoli a quanto pare, però vi spiega tutto Barbara Gallavotti. Tempi difficili dal punto di vista finanziario sembrano avere effetti discordanti sulla salute, lo sostiene in un recente articolo il New York Times. Sarà una magra consolazione, però quando l'economia fiorisce, a quanto pare, si tende a mangiare peggio, perché si mangia più spesso fuori, a lavorare di più e quindi si ha meno tempo libero per fare movimento e inoltre si bevono anche più alcolici. Al contrario, in tempo di crisi, si cucina a casa cibo più sano e si fa più moto. Insomma, in un certo senso, quando l'economia va male, la salute ci guadagna, a patto però, ovviamente, che la crisi non sia tanto grave da impedire una corretta alimentazione e le opportune cure mediche in caso di necessità. Il primo ministro cinese ha recentemente rilasciato un'intervista alla rivista Science. Ecco alcune delle sue dichiarazioni. I nostri obiettivi sono: primo, porre la popolazione al primo posto. Secondo, integrare lo sviluppo economico con lo sviluppo sociale. Terzo, risolvere le disparità fra ricchi e poveri. Quarto, perseguire uno sviluppo sostenibile. Questi quattro obiettivi non possono essere raggiunti senza scienza e tecnologia, oppure senza innovazione. E poi ancora ha dichiarato: personalmente attribuisco una grande importanza alla scienza di base, perché senza la sua forza trainante credo non possa esistere ricerca applicata. Non si tratta solo di parole. Gli investimenti cinesi nella ricerca crescono in maniera sostanziale ogni anno e così gli stipendi dei ricercatori. Per loro ormai andare all'estero non è più una scelta economica particolarmente conveniente. Avete presente i diavoli della Tasmania? Sono dei marsupiali che vivono, ovviamente, in Tasmania. Come dimensioni non sono granché. I più grandi raggiungono al massimo 14 kg. Si tratta comunque dei più grossi marsupiali carnivori oggi esistenti. Il loro carattere è pessimo, decisamente ostile a ogni addomesticamento, e unghie e artigli sono tali da non incoraggiare eventuali tentativi. Forse conoscete la loro versione a cartoni animati, è il travolgente e bruto Taz, creato dalla Warner Bros. Comunque sia, da qualche tempo i diavoli della Tasmania sono in gravissima difficoltà. Il motivo è un virus, causa un tumore raccapricciante che devasta il muso degli animali, impedisce loro di mangiare e li porta alla morte per fame. Il tumore passa da un animale all'altro, soprattutto nella stagione degli amori, quando le risse con reciproci morsi sul muso sono all'ordine del giorno. Qualcuno ora teme che la specie possa scomparire entro i prossimi 25 anni, al punto che gli esperti l'hanno recentemente inclusa nella lista degli animali minacciati di estinzione. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Parliamo di innovazione, come facciamo ogni tanto a Moebius, in questo spazio nel quale siamo in collaborazione con Italian Applications, che è appunto un progetto che si occupa di innovazione italiana. Questa sera parliamo del gruppo Sapio, è un'azienda italiana che è impegnata nella produzione dei cosiddetti gas tecnici, sono i gas come quelli per esempio per usi medici, però i gas tecnici invece rientrano per esempio in moltissime apparecchiature, hanno a che fare con uno dei problemi più grossi che abbiamo oggi, cioè quello appunto dell'inquinamento ambientale. Per parlare appunto di questi gas tecnici e della loro particolare innovazione, ho qui questa sera l'ingegner Giovanni Forlanelli. Buonasera Forlanelli. Buonasera. Lei lavora alla ricerca e sviluppo del gruppo, no? Immagino. Sì. Senta, ci racconti subito, ci dica che cos'è il 1234F come Firenze Y, è il nome di che cosa? Sì, il 1234YF è un gas refrigerante di quarta generazione, ovvero noi proprio nei giorni scorsi a Torino abbiamo praticato una giornata del premio Sapio relativa all'argomento ambiente e in questo contesto, in seguito a quelli che sono gli ultimi aggiornamenti delle regolamentazioni europee in funzione di quello che si chiama impatto ambientale, con il nostro partner francese Arkema abbiamo messo a punto questo nuovo prodotto che avrà un effetto serra di circa 400 volte più basso rispetto agli attuali gas fluorurati utilizzati diciamo dall'industria italiana e più generalmente europea. Dove vengono utilizzati questi gas? Allora, in prima battuta, per quanto concerne questo 1234YF, è il gas che verrà utilizzato nei nuovi impianti di condizionamento dell'auto. Attualmente il gas utilizzato si chiama 134A e ha un effetto serra pari a 1400 volte rispetto al valore dato a 1 che era CO2. Ecco, mi scusi, lei usa un gergale, ha un effetto serra, sembra che produca l'effetto serra, no, vuol dire che... Contribuisce all'effetto serra con quell'incidenza, diciamo. Esatto. Mentre invece quello a cui state lavorando voi... Quello a cui stiamo lavorando e che abbiamo già certificato con le principali aziende automobilistiche mondiali avrà un rapporto effetto serra uguale a 4, quindi circa 400 volte più basso. Quindi veramente una rivoluzione in termini di efficienza. Assolutamente sì, diciamo che gli aspetti principali erano due. Il primo aspetto era quello di evitare grosse reingegnerizzazioni degli impianti di condizionamento dell'auto e quindi diciamo che di trovare un prodotto che era in grado di sostituire l'attuale senza grosse modifiche, di modo tale che questi impianti possano essere utilizzati sia su quelle che vengono definite auto di lusso, ma anche più genericamente su tutto quelle che sono tutte le tipologie di autovetture, quindi anche a quelle a basso costo. Finiranno anche dentro altre apparecchiature questi nuovi prodotti o no? Andrà a finire anche in altre apparecchiature, perché al momento la normativa europea prevede solo la sostituzione delle auto, ma sicuramente poi andrà a finire in tutti quelli che sono i campi della refrigerazione, quindi nei grossi centri commerciali, ovviamente anche nelle nostre case, nei nostri frigoriferi domestici e nei nostri impianti di aria condizionata. Cioè tutti questi prodotti di quarta generazione credo entro il 2015 dovranno sostituire radicalmente tutto quello che attualmente stiamo utilizzando. E il vostro prodotto è assolutamente di punta, mi pare di capire, cioè guardando semplicemente i numeri siete i più bassi al momento. Assolutamente sì. Quindi in conclusione, intorno al 2011 dovremo incominciare a vedere applicate queste nuove tecnologie? Diciamo che noi con i principali gruppi europei abbiamo già iniziato ad avere i primi contatti e diciamo che il 2011 sarà lo startup ufficiale, cioè vuol dire che a partire dal 2011 tutte le nuove piattaforme dovranno avere questo gas. È un impegno forte perché da parte nostra ci sono degli investimenti importanti, anche perché sa, far cambiare idee a grosse società multinazionali non è poi non è banale. Non è banale. Esatto. Grazie Forlanelli, buonasera e buon lavoro soprattutto. Prego, grazie a lei, buona serata. Andiamo ancora a Genova e andiamo alla mostra sulla omosessualità animale. Contro natura è il titolo di questa mostra, con il punto di domande che ovviamente rimanda a una certa tesi, e di questo ci parla Chiara Albicocco intervistando Evelina Isola, una delle assistenti all'esposizione, ed è lei che ci parla subito del significato generale di questa mostra. La mostra descrive alcuni comportamenti nel mondo animale che riguardano l'omosessualità. Quindi parliamo di omosessualità nel mondo animale. È un fenomeno diffuso? Sono state studiate circa, sono state osservate in circa 1500 specie, 500 delle quali abbiamo una folta documentazione, comportamenti di tipo omosessuale, con un'incidenza media che mi pare si aggiri intorno al 15-18% all'interno di una popolazione. Quindi è una percentuale che è abbastanza in linea con quella che è la percentuale nell'uomo. Ecco, c'è una particolarità per cui ci sono delle specie più di altre presentano questo tipo di comportamento o è indistintamente una cosa diffusa? Qui nella mostra in particolare si parla di uccelli, si fanno diversi esempi, non vuole ovviamente avere alcun tipo di giudizio, di forma su questo comportamento che è semplicemente come qualsiasi comportamento studiato dall'etologia un aspetto della scienza che va fatto conoscere al pubblico. La mostra si propone appunto di far conoscere al grande pubblico questo aspetto della vita degli animali attraverso alcuni esempi. Gli esempi riguardano molto uccelli, ad esempio cigni, ad esempio gabbiani comuni, la gazza di mare e molto spesso cetacei, quindi mammiferi marini, delfini, orche. Allora Evelina, facciamo una cosa, fingiamo di fare una visita, diciamo così, virtuale per gli ascoltatori della radio. Abbiamo sicuramente un folto materiale fotografico e si hanno alcune esposizioni di modelli e di animali tassidermizzati, riprodotti proprio durante atti sessuali con di individui appartenenti allo stesso sesso. In particolare in questo momento, Chiara, stiamo vedendo due esempi. Abbiamo una coppia di delfini tursiopi, sono due femmine, abbiamo una coppia di globicefali maschi che appunto durante l'espletamento della loro attività sessuale con l'individuo dello stesso sesso. Abbiamo poi una coppia di cigni tassidermizzati, si tratta di due femmine che conducono la loro intera vita come coppia, sia le coppie eterosessuali che le coppie omosessuali, in molte specie animali sono coppie per la vita, se uno dei due individui muore l'altro rimane vedovo inconsolabile per il resto della sua vita. E succede nelle femmine di cigno, ad esempio, che allevano da sole la prole, una delle due si fa fecondare da un maschio, dopodiché la cova e l'accudimento della prole viene effettuato da una coppia di femmine. E la stessa cosa può capitare anche ad esempio per i maschi. Un esempio particolare secondo la mia opinione è quello dei super papà, i fenicotteri rosa ad esempio. Nei fenicotteri rosa si può avere talvolta la presenza di coppie di maschi che allevano la prole, quindi o entrambi o uno dei due feconda le uova di una femmina, ma la cova e l'allevamento della prole è poi interamente gestito dalla coppia di maschi che si accoppiano con la femmina solo durante il periodo della riproduzione. Durante il periodo dell'anno comunque la loro pulsione sessuale è sempre attiva e espletano le proprie funzioni sessuali con il compagno maschio. Fanno tutto loro, insomma, dei super papà. Ecco, qua di fianco a noi ci sono quattro pinguini invece con la sciarpa rosa e questi cosa significano? Anche nei pinguini è stata registrata la presenza di coppie omosessuali, come nei pinguini anche nelle gazze di mare. Nella gazza di mare succede una cosa molto particolare. Molti uccelli, come sicuramente il pubblico saprà, c'è un dimorfismo sessuale che riguarda soprattutto il piumaggio, quindi ad esempio i germani reali sono quelle anatre selvatiche che vediamo col collo verde e il maschio è quello più appariscente, quello colorato. Generalmente succede questo, il maschio è più colorato, la femmina è meno appariscente. Molte volte invece maschio e femmina si assomigliano parecchio, come nel caso dei gabbiani, come nel caso delle gazze di mare appunto, tanto che per riconoscere ad esempio una coppia di gabbiani omosessuali bisogna fare il test del DNA. Ma si confondono anche tra di loro si riconoscono, quindi non è un'omosessualità per caso? No, credo proprio che non sia per caso. Nel caso delle gazze ad esempio a seconda della situazione ambientale, possono scegliere se comportarsi da maschio o da femmina. D'accordo, e dal punto di vista evolutivo, come comportamento è vantaggioso o porta degli svantaggi? Non è facile rispondere a questa domanda, questo sicuramente è uno degli aspetti più complicati da spiegare, perché nell'accezione comune del termine evoluzione noi sappiamo che è evolutivamente vantaggiato l'individuo che è in grado di trasferire il proprio DNA, i propri geni, in modo tale da garantire che i propri geni facciano la loro prosecuzione. Però abbiamo visto che molte specie sia il comportamento omosessuale al di fuori della stagione della riproduzione. Come abbiamo visto i fenicotteri e i cigni, la riproduzione avviene comunque con individui chiaramente del sesso opposto, e si ha poi l'allevamento della prole con individui omosessuali. Ad esempio nel caso dei fenicotteri il vantaggio è costituito dal fatto che una coppia di maschi può sicuramente gestire meglio la difesa del territorio del nido rispetto ad un maschio solo. È sicuramente più forte e alla possibilità di gestire appunto la difesa del nido in maniera più efficace. In alcuni casi, ad esempio negli scimpanzé, o comunque senza fare esempi specifici, ma comunque all'interno di gruppi di primati, di popolazioni di primati, si creano spesso delle situazioni di aggressività. Molto spesso succede che anziché fare la guerra facciano l'amore anche tra individui dello stesso sesso, e quindi praticamente molto spesso sia il sesso di gruppo, ad esempio nei bonobi, sia il sesso tra individui dello stesso sesso, ad esempio tra femmine, sia fatto per compattare le alleanze, quindi le tensioni di gruppo vengono sciolte anziché con scontri, con il rapporto sessuale. Presentato questa settimana il rapporto biennale Living Planet, è una ricerca che appunto ogni due anni ci dice come siamo messi rispetto al carico sull'ambiente che sviluppa ogni paese. Il rapporto è promosso da WWF, Zoological Society di Londra e Global Footprint Report. E cosa devo dirvi? Non siamo messi molto bene come paese, ma non direi che i dati non sono un granché a livello mondiale. Dunque, l'impatto si misura con una modalità un po' strana ma che è molto efficace. Si parla di ettari globali pro capite, ovvero per ogni abitante quanta superficie di pianeta, sia essa terrestre o acquatica, è necessaria per soddisfare le esigenze della vita quotidiana che i consumi di questa persona richiedono in un singolo paese. Veniamo allora a sapere che gli Stati Uniti hanno bisogno di 9,4 ettari pro capite, la Germania di 4,2, l'Italia di 4,8, siamo un po' meglio dell'Inghilterra che ha bisogno di 5,2 ettari pro capite. L'Etiopia, quindi un paese in condizioni economiche molto gravi, ha bisogno di 1,4 ettari pro capite. La Cina è a 2,1. Il dato più importante, tuttavia, è moltiplicare questi ettari per il numero di abitanti. È qui che si vede come funzionano le cose. Se ne viene fuori, infatti, una superficie che è superiore a quella del paese, ecco che questo significa quelli consumano di più di quello che dal loro territorio si può estrarre. Non sarebbe un dramma in assoluto se si trattasse di piccoli sconfinamenti, il dato reale invece è che molti paesi dell'Occidente avanzato, però anche la Cina, vivono ben al di sopra dei loro mezzi. Anche per questa puntata Möbius vi ha raccontato tutto quello che aveva da dirvi. Buona serata a tutti e tutti, ci sentiamo la prossima settimana.